Meglio va, finalmente si è uscito bene. Ho cambiato la capsula economica del lungo termine. Del cosa? Del M1000, solo che deve esserci potenziometro, come si chiama, dall'eco che è andata a funzionare. Ok. Allora riapro il coperchio, poi vediamo un pochettino com'è. Ok. Senti i fischi perché c'ho, ecco, adesso ho spento la tabacchina. Registrato, sì, infatti avevi una specie di fischiettino basso che ogni tanto ti inseguiva e quindi ho detto o è un innesco o è un monitor, un baracchino messo come monitor. Avanti il break. Ciao Nicola, ben entrato, oggi la giornata è già migliore, se non pindaccio. E Antonello, hai detto, non riesci a copiarlo bene, no? Antonello, quindi anche Nicola ha difficoltà a copiarti, capito Antonello? Tu sicuramente sei anche liscio. Comunque Antonello, se ieri, non so se hai guardato la TV, c'era un filmone, c'entravano i radioamatori, c'entravano le onde radio, c'entrava anche un'intensa attività solare, geomagnetica, proprio come c'è in questo periodo, aurore boreali a basse latitudini, insomma un filmone Antonè, lo dovevi vedere, c'entravano paradossi temporali, c'entrava anche l'effetto farfalla, per cui se quel ragazzo dal futuro salvava il padre del passato, ci sarebbero stati però disastrosi effetti su altre persone care o intorno a loro. Guarda, un filmone. Ma come stava quel film io, la presenza civica? Che era? Dopo la mezzanotte? No, anzi, era in prima serata, era sul canale 22. Era intitolato Frequency, il futuro in ascolto. Capito, allora, per un'attività geomagnetica anomala si sono contattati senza sapere chi erano l'uno e l'altro, il padre e il figlio, dopo 30 anni. Il padre parlava dal 1969, il figlio dal 99, pensa. La radio era la stessa, è una EAT kit, sai quelle dell'Anudrea valvole. Bella trama, poi c'era in mezzo la trama poliziesca, anche per cui, guarda, bello, la prima volta è la seconda volta che lo vedo, la prima volta che l'ho visto mi ha fatto venire i zuddi dritti sul braccio, capito? I brividi mi ha fatto venire quel film. Vai Nicola, siamo lì. Il segnale, diciamo, ho difficoltà a dartelo perché questo smitter è verticale, ma è talmente minuscolo che senza gli occhiali per la lettura, che al momento non ho, non potrei darti un controllo, però io presumo che tu sia sempre intorno all'8-9, perché tu bene o male arrivi intorno a quel segnale là, capito? E tu quel film l'hai visto per caso ieri? Era sul 22, che non ricordo se sia Iris, in primo spettacolo, sì, veramente bello Antonè. È così, dai, insomma. Poi c'entrava l'attività, secondo me l'hanno mandato per quello, c'era un'attività geomagnetica intensissima e anomala come questo periodo, quindi aurore boreali, come ti ho detto, a basse latitudini, e lì ha fatto da tipo wormhole, da ponte per le onde radio in due epoche diverse, è una figata di film. Vai Antonio, riprendi. Bellino, va bene. Facciamo un bel camagone. Se ma comunque già va bene. A voi, Cosa dite? Generiamo la basolata quest'anno. Il giorno della canivola che passa a tabella, va bene, rimaniamo senza luce. Rimaniamo senza... Buonasera a chi è entrato, a chi ha salutato. Rimaniamo senza luce, hai detto. Allora, senza luce rimaniamo. Secondo quello che fa il sole, se c'è una qualche bordata di lusso, non è che viene a mancare la luce. Vabbè, fanno un gran parlare di queste attività geomagnetiche. Si dice che nel 1800 e tanti abbia fatto bruciare i cavi del telegrafo, sempre che non sia una leggenda metropolitana, E comunque guarda che è una cosa grossa, Se venisse con l'elettronica di oggi un'attività del genere, farebbe abbastanza danni. Poi dipende. Ecco, ti volevo dire, hai visto ieri invece quando c'era quell'acquazzone? Un fulmine ha beccato a Sant'Orsola il vertice di una palazzina che era fatta un po' a punta, no? A V. Ha beccato proprio l'angolo. Sì, il foro non è molto grande, ma se guardi la foto ingrandita sembra un buco di proiettili d'artiglieria. Allucinante. Quindi, come è caduto il fulmine, all'istante è sparita la corrente lì e in tutte le palazzine intorno. Allucinante deve essere. Poi il botto deve essere terrificante. Io lo so, ho già vissuto io questa roba. Qua vicino già lo sai che è esplosa la cabina elettrica che c'ho vicino a casa, quella di via Caponazzi. Per due volte un fulmine era sceso e un tuono ha trattato, non basta, poi ho sentito i pompieri salire giù, la cabina non funzionava più, ho detto, c'era un fumo, a parte l'ordine che c'era in terra, ha spaccato completamente gli isolatori che erano bagnati in olio per raffreddare. C'era tutto l'ordine in terra, abbiamo carburato, i vigili urbani bloccando il traffico e buttando terra. Eia. Allora, vediamo se vuole entrare qualcuno, avanti. Niente, tutti accusendi, va bene. Io li temo molto, però io anziché credevo cadesse su un'antenna, su un comignolo in rame, invece è finita sulla facciata, all'angolo estremo, no? Perché te l'ho detto, è a V, è un po' a punta è fatta questa facciata di questa palazzina, a meno che non abbia trovato qualche gocciolatoio, grondaietta in rame, cosa ne so. Insomma, il fulmine cade dove vuole lui, a casaccio, dove cade cade e fa danno. E quello già è vero, guarda che la stessa cosa anche in macchina, devi stare molto attento, perché se ti becca in macchina, fai il tempo giusto giusto a uscire dal fulmine dalla macchina, e ti pigliavo con la macchina, mi lo sai, cioè, non sei perfetto in macchina, tutti pensavano che... In pratica la macchina faceva la gabbia a fare, dai. Domani, se ti becca in pieno il fulmine, basta che ti guardi i filmati di YouTube, c'è da spaventarsi. Sì, mi ricordo, era uscito sulla nuova, praticamente il fulmine aveva scaricato sul parabrezza, vabbè anteriore, dietro si chiama l'1.8, sul parabrezza nell'angolo in basso a sinistra in direzione del volante. Adesso io non so se questa sia una burla, se sia una leggenda metropolitana, se sia una cosa fatta artificiosamente, però fatto sta che il vetro era fuso in quel punto, fuso e annerito, e ha scaricato mi pare sul volante e sul sedile. Quindi se ci fosse stata una persona alla guida l'avrebbe, presumo, ustionata o folgorata. Vediamo se Nicola se lo ricorda questo fatto, è successo alcuni anni fa. Ma infatti sembra strano anche a me, perché, come ha detto Antonello, la carrozzeria in teoria dovrebbe fare da gabbia di Faraday, proteggendo anche chi è all'interno. Invece lì il fulmine è come che avesse scaricato al bordo, in basso a sinistra del parabrezza, ha perforato, avrebbe, sempre qua la condizionale, perché non sia che sia una burla o cosa inventata, che è la prima volta che lo sento, e c'era proprio il vetro forato, annerito, come se proprio fosse finito una, non lo so, una pistola spaziale al plasma, un phaser, non saprei dirti. E quindi ha danneggiato anche l'interno dell'auto, lato guidatore proprio. E quindi non si è sicuri neanche in macchina, boh. Una volta esistevano addirittura quegli scaricatori per la macchina, quelle piccole codine di gomma, no? Era un cavo di rame o quello che era, con un po' di gomma intorno, e strisciava per terra mentre guidavi, ve lo ricordate? In modo da scaricare a terra. Quella era la massa a terra, la chiamavano quella. Era una macchina vecchia, era. Vede che 850, 500, ce l'avevano. Avete parlato in due, Nicola, ripeti, sì, io comunque ho capito che te lo ricordi. Rispetto alla terra sì, però è come se il fulmine, non lo so, sia caduto proprio in un punto casuale, come quella palazzina, ripeto, a meno che non ci fosse qualche gocciolatoio, qualche grondaietta in rame lì. Ha bucato il cemento, cioè ha bucato la struttura, guarda, sulla nuova c'è la foto. Palazzina, Sant'Orso, l'è successo ieri, e nella foto ingrandita si vede un foro proprio nella pietra, nel quello che è adesso, magari sono anche tecnologicamente più moderni i palazzi, materiali più leggeri, ha fatto un bel foro, sembra un bel colpo di proiettile d'artiglieria verso un palazzo, in stile Ucraina. Perciò ho detto, il fulmine mi sa che cade dove vuole, sì, certe volte ha le vie preferenziali, alberi, conduttori, a volte cade, io l'ho visto cadere anche in filmati di YouTube dietro a motoscafi, quasi attaccato alle persone che lo stavano guidando, ma guarda, fa spavento, io perciò i lampi li temo molto. Quindi mai mettersi in campagna sotto un albero, bisogna stare al chiuso possibilmente, non lo so, e anche lì non è che sia al sicuro. Che avevo visto tanto tempo fa una villetta con i muri esplosi, cioè tutto l'impianto elettrico dove passavano i cavi, il muro spaccato, divaricato di roba di 20 centimetri, tutto dove c'erano i cavi, scoppiato tutto l'impianto elettrico. Allora, una cosa terrificante. Antone, quel giorno ti ho detto, mi sali, il giorno del temporale, sali in punta l'antenna, regola, così se non fulmini, prima ti crescono i capelli e ti vengono sparati, tipo zichichimi, tipo quello scienziato, o tipo Einstein. Mi chiamo Gigi, non Einstein, hai capito, faccio la spesa tutti i giorni, riempio il carretto, non l'hai visto. Il carretto lo riempio il MB, ma... E così proprio domani mattina lo riempie il carrello. Una volta si poteva riempire, quando era appena nato, io lo spin. Andavi lì con 50.000 lire e c'avevi il carrello bello pieno. Adesso con 50.000 lire, cioè 50 euro, non fai nulla. Sì, è vero, molti si sono lamentati. Ho sentito anche signori uscire con la propria moglie. Uscire da Lido, si guardavano il carrello e dicevano, beh, abbiamo speso quasi, quasi 50 euro, guarda il carrello, due fesserie in croce, cosa abbiamo comprato? Niente, dice, questa spesa è, due fesserie in croce abbiamo comprato con 50 euro, che, voglio ricordare, erano, almeno una volta erano ben 100.000 lire. Esatto, sì, già era così. Purtroppo non si può fare più la spesa come prima. Guarda, MD, quando una volta... Ma la verrai a te, sì. Guarda, quando due busta me lo perché la carne e gli hamburger di cavallo costavano 3 euro, ce ne sono 4 dentro. E pacco. Poi ci sono i cotoblè, ce ne sono 6 addirittura, che costano, se mettono 3,50 euro. Quindi, a seconda di quello che compri, a olio che lo riempi, cosa, la busta. Beh, lo spigli, pigli due cazzate, ti parto 100 euro, hai capito? Via. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, buonasera. Ma la birra, ragazzi, però. La, via. già sì. Però vedi, ne esce a meno, se prima ne compravi tot bottiglie o lattine o casse, adesso te ne viene meno a parità di spesa. No, basta fare meno spesa. Quello che è vero. La birra da Agostini, 8 lattine, 4 euro e 65 se non mi ricordo male, prima costava 45 centesimi l'uno, quelle lattine, allora 56, e di figura di, tutto è aumentato, ma con la birra si può comprare. E anche, ma tanto meno l'acqua, perché quando vai a comprare l'acqua, se ti metti il cannello di acqua, ti fai il conto di come ti comprati il depuratore, fai prima. E vabbè, l'acqua però è essenziale, uno la compra. Piuttosto, Luca, buonasera, ben entrato. Guarda se copi Nicola Lupo Grigio. Nicola, vieni avanti. Ehi, molto basso. Ehi, quindi copiato Nico, molto basso. Poi Nicola l'altro giorno stava chiedendo, non so di chi erano due antenne, credo nella zona tua, magari erano anche le tue, Luca, però siccome io non conosco bene la disposizione della chiesetta, del campetto di calcio, non ero sicuro e poi magari non ho voluto dare indizi personali. Ma vediamo se Nicola lo spiega meglio, magari glielo sai dire chi può essere. Nico, può essere Luca? Io sono vicino al campo, attaccato al campo. Copiato Nico, lui è attaccato al campetto sportivo, però non so se Luca abbia due antenne, vabbè che lui sta sempre inventando di poli così, l'app. Ah, c'è il dipolo che è sotto la verticale e la X300, l'oratorio salesiano. Io per esempio non so nemmeno quale sia Piazza Munsen, cioè magari ci sono passato un milione di volte ma non ricordo i nomi delle vie. E c'è un oratorio, e sarà qualche altro CB o qualche radioamatore o qualcuno che non opera più, boh. Il c'è il ciclo, dove la notte ballano. Esattamente il ciclo. La Cristian, mandalo. Dopo le 9, vedi. Almeno lui abbia costa 2 euro, croccante. Tu ti sei perso l'affarratorio che c'era avanti ieri notte. Oh yeah, un tipo che sta qua vicino. Cotto cosa era? Prima l'erano i cudenti dal circolo di Mario. La poi ne è tornato con un roccio e l'hanno tornato a piscicchi bacudillo. Poi deve esserci abbassato il pantaloncino, che era petto nudo il pantaloncino. L'ha visto quella del primo piano. Se c'era un marito che avrà una cinquantina d'anni, la piglia da bozzi e farà due ossu con un figliolo. Prima contro il babbo, da buona contro un figliolo. Insomma, ne ha preso un po' da tutti, dai. Sogna su sei anni d'aldo. Allora, gli ultimi, ma due schiaffi, uno destro e uno con la sinistra, gliel'ha dato il figlio, si è coccato in terra, ha detto, bombo sull'ombo. Infatti, dopo un po' è arrivata l'ambulanza, carabinieri, polizia, oh yeah. Che belli quei quartieri, sono belli piccanti, belli croccanti. Ma non è più come prima, ragazzi. Allora ne vedi una, ogni voce di babba di questi cosi. Allora, mi ricordo che anni fa, per sentito dire, io non è che frequento, dove c'è la pizzeria Graziano, a fianco c'è quel bar, c'era stata una rissa sanguinaria qualche anno fa, che si vedeva tutto pieno di sangue a terra. Per carità, no, non ci fai no di notte, soprattutto i sabati, quando l'aria è già satura di alcol. Ah, Marzana fece, ma quello chiudono presto qua in bar, i circoli chiudono, cioè più che altro Cristian chiude tardi, ma l'altro Mario, anche Mario stesso chiude verso le 9, così il circolo, mentre il bar Sanna, il bar che qua sotto chiudono 8:30. Insomma, Nicola, quando era in servizio chissà quante ne ha viste. Vai Nico, ma dove eri? Zona calda? Cioè dove hai operato? Zona calda, ma tipo grande città, Napoli, Palermo? Sì, poi diciamo la zona dove siamo noi, Capuccini, è considerata, residenziale. è più tranquilla, anzi ti dirò, io sono venuto qui nel 92, qui era già molto ancora più signorile un po' la situazione, adesso beh, sembra di essere più al Monte Rosello, un po' di più, si è un po' sporcata un po' l'ambiente, però non siamo al corso, ecco, non siamo a Santa Maria di Pisa, non siamo in certe zone del latte dolce un po' lonfie, capito? Qua è relativamente tranquillo. Riprendi Luca. Oh, questo microfono sta pompando un bel CTP che era con le 4.000. Però intanto hai visto il Connex 4.000, che poi sarebbe una specie di 3.009, tanti anni, ma sai quanti anni l'avevamo comprato nuovo da guarda, forse era Cineradio, forse Cineradio, perché mi pare che Adriano in Viale Umberto avesse invece multimode, questo me lo ricordo, aveva i multimode vari, infatti multimode 3 l'avevamo comprato lì, il Viking 2 l'avevamo comprato lì, invece il Connex 4000, quella potrebbe essere o da Cineradio o da Mario Nottari, uno dei due, comprato nuovo, quindi nulla, non roba usata. Mario Nottari li vendeva questi qua, io l'avevo comprato ad Alghero il mio 2009, il primo. C'era il primo, la seconda serie ho comprato, io Pieradora, papà lo fa altri quattro di Alghero, perché la prima serie era difettosa, avevo comprato la seconda serie e era una bomba, infatti ancora vivo l'apparecchio, devo solamente portarlo per, c'ha problemi in FM, c'ha in ricezione e basta, poi in trasmissione c'è bene, solo in ricezione. C'è più di 20 anni quell'apparecchio, cosa vuoi? Sarà stato da fargli qualche regolazione, qualche trimmer a cambiare. Ega, volevo chiedere a Nicola se lui si ricorda, non so se ci fosse già Sassari in quel periodo, Melchioni, il negozio dei Melchioni sempre a Cappuccini, tipo dalle parti di Viale San Francesco, via Bucari forse, ne hai memoria? Melchioni, Melchioni Elettronica. E Antonè, aiutami, dove era Melchioni? Viale San Francesco proprio o tipo via Bucari, quella traversa lì, quella via... Viale San Francesco. Ciao Nathalie, finalmente, come va? Guarda che Nicola ha chiesto di te. Io ho accennato senza, con discrezione, senza dare troppi dettagli. Casomai se avete anche i social vi sentite lì. Come va Nathalie? Sto facendo la terapia per il dolore, perché non si può resistere. Nicola, hai copiato Natalino? Sì, cambio. Cosa ti volevo dire? Mi operano questo settembre, devo fare il giorno 26 il pre-ricovero e a settembre mi operano. Speriamo che finisca in fretta questo calvario, non ne posso più. Purtroppo poi, hai capito, i signori medici devono andare in ferie e tu soffrendo, loro in ferie, se no ti avrebbero già... Purtroppo queste cose capitano sempre a cavallo delle festività più grandi. Io in questa situazione sono da Pasquetta, figurati che calvario sto affrontando, c'è da prendersi una pistola e spararsi. Manco dirlo per scherzo, però... Me l'immagino, io vabbè non ho sofferto così per quelle patologie, però secondo me ne ho un'idea, poi con Nicola se avete WhatsApp vi sentite in privato, dai. Se non ho capito che i delatori poi si godono a sentire queste cose. Quindi dove volevo arrivare? Vabbè Nico, insomma c'era questo Melchioni Viale San Francesco, no? Allora, il famoso presidente, come si chiamava? Il presidente Jackson era quello cromato, c'era anche nero, che tu sui cataloghi online trovavi 250, 200, 250, comunque 250 euro per l'anno 84-85, era già un piccolo capitale. Beh, Melchioni a Sassari ce l'aveva in vetrina, il prezzo era 450.000 lire, nell'85 erano prezzi folli, fuori mercato, mai visti da nessuna parte, ma infatti l'apparato rimaneva lì, sarà rimasto 15 anni con l'apparato in vetrina, prezzi veramente folli, vai lì co. Infatti era un po' tutto caro che io ricordi, poi vabbè, Natalino lo saprà, Antonio non lo saprà, era una farmacia Melchioni, poi si era trasferito, scusate il singhiozzo, si era trasferito, era cominciato ad andare male, aveva cambiato gestione, è diventato buio, una specie di grotta con poca luce, poco personale, poi mi pare che abbia chiuso, vero? Natale, sai niente? Non lo so. Che è chiuso, è chiuso anche Giorgio Grassi, ha fallito pure lui. Ha chiuso Giorgio Grassi? Pure lui, il cacchio, perché mi ricordo che Grassi già non vendeva più roba Intec, anche perché la Intec aveva chiuso, lui era rivenditore Intec, già da anni, non aveva più niente nemmeno di magazzino, e quindi anche lui cessazione attività, perché il padre più che altro se ne occupava, no? Il figlio non so se se ne occupasse di quell'attività o facesse altro, francamente. No, Melchioni, Giorgio Grassi ha fallito anche lui. È chiuso anche lui. Guadagnava solo dalle parabole e l'attività l'aveva lasciata a cosa? Al suo vecchio dipendente che aveva aperto il negozio dietro il panificio che c'è... insomma di costa di Cesaraccio e mi sembra di sì, prima aveva aperto alle cuoce se ti ricordi, poi da lì c'era uscita per la niente e mi sembra che è così anche quello, non è più nulla ormai, noi siamo diventati come la Corsica, cioè come i corsicani, se ti serve qualche cosa devi prenderti un rapporto qui e andare la roba da fuori, è l'unico modo. Tanto qua non te lo diranno niente. Fusano è passato GBC adesso, poi non so contorino come la metteranno, perché ho visto che era ancora aperto, non c'era alcun cane, l'altro giorno. C'erano solo le casse aperte, cioè tutte quelle scatole in fila dentro, in fila indiana, e manco un cane. Peccato, Sassari per questi negozi di elettronica è andata andando e peggiorando. Ma sai perché? Troppi prodotti a basso consumo, cioè televisori che compri su supermercati, questi HI, io vorrei sapere come fanno a fare quei prezzi così bassi. Capisco che siano di cartone, se tu li smonti, questi HI, questi Telefunken, dentro è vioggio, cioè c'è una schedina cacata, permettetemi di dire, proprio una schedina cacata, più la schedina dell'alimentatore che spesso parte, e poi questo schermo di dubbia qualità, tutto il resto sembra proprio plastichetta, manzonite, cartone, roba economicissima. Quindi sono apparati usa e getta, non fa nemmeno, fuori garanzia no, non avrebbe senso nemmeno ripararli, quindi da lì niente ricambi, niente tutto. E così faremo per le macchine, per queste macchine elettriche non ne parliamo. Che già quando hai un problema già ti dicono che non si possono riparare, cioè ci hai buttato 30-40 mila euro di cosa, di euro. Vediamo se è rientrato Luca Flipper. Marco, siccome sono qua al computer che sto scaricando dei driver, non posso... dai, già sono in ascolto, riprendete voi. Chi è entrato? Natalino, ciao Natalino. Ciao Lu, ne approfitto così almeno vi avviso che vi ascolto, adesso mi curico un po' a vedere se riesco a prendere un po' di sonno. Vi ascolto là. Ecco. Aia, ciao Natalino, ci sentiamo dopo. Buona... e ciao anche a Luca. Avanti Max. Buonasera, ciao Antonio, da questa parte. Avete parlato in due, ciao Antonio, ben entrato. Sono in compagnia di Luca Flipper in stand-by, Antonio Loponponio, Nicola Lupo Grigio, vediamo se lo copi dalla Latte Dolce. Nicola, vai per Antonio. Capa, già ti sento, un po' bassino, ma già ti sento. A panico. Non sei fortissimo, non sei, però ne ho sentito anche un altro, ne ho sentito. Non so chi era. Ma mi sono intrippato. Ciao Antonio, Marco qua. Non mi ricordo se c'era Natalino, ecco, Natalino ha detto che sta in stand-by, che cerca di riposarsi un po', che non sta bene. Ho sentito una voce nuova. Scariche microfoniche. A momenti esci più basso, meno basso, a momenti non esci. Cosa stai dicendo? Eia, un po' di scarichette microfoniche. Lo devo controllare, cavolo, quello di camera da letto, K. E quindi, vabbè, quindi Natalino lo sa, Antonello lo sa. Magari Antonio forse era piccolo, troppo piccolo per l'epoca, ai tempi di Melchione di Viale San Francesco, però i prezzi, per dirlo a Nicola, erano veramente fuori mercato, cioè non ha senso applicare, loro applicavano i prezzi di listino del catalogo Melchioni, che sono inapplicabili, anche la Inter che metteva dei prezzi di listino folli, però poi al dettaglio si vendeva a prezzi normali, insomma, portata bene o male di quasi tutte le tasche. E infatti all'epoca lì prendevi CQ elettronica in edicola e c'erano tutti i venditori. Chi c'era all'epoca? C'era, vabbè, l'elettronica c'è sempre stato, c'erano insomma una miriade di venditori di roba elettronica e soprattutto anche baracchini, e ne trovavi di tutti i tipi, li trovavi in versione originale, in versione col transverter 45 metri, 88 metri, di tutte le maniere ce n'erano, a prezzi peraltro abbordabili, naturalmente più lo volevi elaborato e più lo pagavi, però se lo compravi normale, base, i prezzi erano veramente buoni. Adesso non mi ricordo i rivenditori, Antonetti, ti ricordi il nome di qualche rivenditore di allora che pubblicizzava su CQ elettronica, tipo Fratelli Merlina, può essere? Io non lo ricordo più, no. Una volta compravo CQ elettronica, poi è stato anche con la circolazione, non lo fanno più. Quindi figurati. Ormai quei giornali sono spariti, erano belli comunque, perché potevi tranquillamente ordinare da lì, vedevi l'apparecchio, prendevi il telefono e ordinavi. Adesso invece vedrai su internet, fatti tutto il giro del globo, capito, cosa del genere, poi ordinati l'apparecchio e aspettare che ti arrivi. Eia, ma infatti molte di quelle aziende, stiamo parlando di prima metà anni 80 e metà anni 80, molte non esisteranno più. L'elettronica sopravvive, prezzi certo non proprio abbordabilissimi, perché sempre quei 10 o 20 euro in più, l'elettronica parità di articolo è un po' più caro. Quello che per le radio e baracchine è sempre più economico, e antenne è sempre... come si chiama? Porca miseria. Quello al sud. Dai, Media Globe. Ah, quello sì, già me lo ricordo. Compravi tu, compravi da Media Globe. Me lo ricordo sempre. Ma adesso bisogna farci un giro di corso. C'è un sito comunque dove vendono gli apparecchi modello antico. C'è l'indirizzo qua. C'è Antonio, si è comprato il microfono, 25 euro, più la spedizione, 40 euro in tutto. Ed è un bel microfono, la verità, non è entrato più te, ma gli rassomiglia un po', ma funziona bene. Capito? Adesso te lo attacco, così te lo faccio sentire su questo baracchino. E provo un po'. Guarda, in realtà adesso se uno volesse spulciare vecchi CQ elettronica o roba del genere, radio rivista, quelle lì, ci sono questi siti amatoriali, CB amatoriali, ogni tanto mettono qualche link e ti riportano a dei database dove li puoi sfogliare, vedere le vecchie marche di radio amatoriali, anche i vecchi rivenditori, però adesso non ho link a portata di mano, ecco. E quindi Nico, però vedi, il baracchino è sempre stato l'unico apparecchio elettrico, elettromistico, praticamente di cui non vedevi mai né pubblicità in televisione, anche le riparazioni certe volte erano un problema, perché fuori garanzia, pezzi gira, non conveniva proprio ripararne. Non molti facevano le riparazioni perché era una rogna, capito? non erano come i televisori, le normali radio, audio. Il baracchino è sempre stato un prodotto di nicchia ed era anche una seccatura sempre o trovare ricami o trovare un riparatore, magari non ufficiale. Vai Nicola. Nicola è. Dimmi a tutto. Chi Nicola è questo signore? Scusa, sì, allora è Nicola Lupo Grigio, che modula da Cappuccini. Nicola Lupo Grigio è un po' in basso nei palazzi, quindi arriva un po' bassino a tutti, addirittura Antonello non lo sente e viceversa. Quando Antonello è liscio non arriva nemmeno da Nicola, a me arriva intorno all'8-9, qualcosa del genere. E quindi Antonio, riprenditi un attimino. Tu, ecco, per esempio, siccome tu sei molto più piccolo di me, mi pare, te lo ricordi tu Melchioni quando eri in viale San Francesco? Non me lo ricordo. Melchioni poi si era trasferito, ma per Daniela, no? Sì, tanti anni dopo si era trasferito, però in origine era in viale San Francesco, ma i prezzi, cioè già guardare le vetrine era costosissimo, già guardare le vetrine. E ascolta, è Adriano in Viale Umberto, ovviamente dalla parte alta, te lo ricordi? E vendeva baracchini più che altro, sì, con materiale elettrico ma soprattutto baracchini, antenne. Chi Mario Quai? Rosello, ti ricordi che le vendeva? No, ripeti. Mario Quai in Via Rosello. Allora, Via Rosello, sì, qualcosa mi ricordo, quel negozietto che è sopravvissuto anche un bel tempo, non so se esiste ancora. Invece in Via Umberto c'era questo Adriano, che era un ragazzo con gli occhiali, c'era anche la moglie nel negozio. Io ti parlo dell'84, quindi ero piccolo io, avevo 13 anni, tu... Io non mi ricordo tanto che differenza ci sia di età anche tra di noi, però forse eri molto, molto più piccolo. Poi a questo Adriano, il nome generico, non so se nemmeno se fosse il nome vero del negoziante, no? Era subentrato nello stesso negozio, stanzone, uffa, non mi viene il termine, era subentrato invece un altro rivenditore di roba nautica, elettronica, di nome Marco Micchi. Hai visto? No, ero piccolo, non stavo nascendo, quindi non è, io sono dell'84, immagina già di due. Marco Micchi era USA Marine Import, per esattezza. Ci ho lavorato io, te lo ricordi, anzi prima di me ci ha lavorato Gabriele e poi Toto Chopin. Ed era Umberto 176, se non mi ricordo male. Adriano Cao invece si era trasferito, quello che stai dicendo tu, vicino a dove c'è la farmacia, in via Budapest. Poi da lì c'era uscito a cosa? A Ripunti, che non c'è più. Comunque, sto usando quel microfono da tavolo. Guarda com'è? Dove sta uscendo? La bomba. L'ha comprato da Electro Vintage, mercatino CEB Elettronica, via Jacopo del Porta 20, viene Vientina P, c'è scritto, come si chiama. E questo, diciamo, degli apparecchi che mi vogliono vecchio, cioè. Secondo io, cioè, ce n'è uno, lui ha in pratica, uno uguale, 160 euro lo sta vendendo. Sembra un Saturnecco, ma non lo è, rimane a frequenzimetro. Però dentro, come circuito, c'è il circuito del multimode 3. Le schede Cybernet, mamma mia, no, meglio niente. 160 euro è regalato quel pezzo di la verità. E per l'illustrazione base c'ha due attacchi d'antenna, c'ha addirittura. L'alimentazione a 12 volt, poi alimentare l'apparecchio a 12 e a 220. Poi c'è l'attacco per agganciare un frequenzimetro esterno e il ricco di quell'aggetto che si attacca la barra dietro per la chiamata selettiva. Tutto è fatto così questo apparecchio. Ah, me lo ricordo quell'attacco, sì, c'era una specie di attacco, c'era anche un ponticello, ti ricordo un cavettino che univa due di questi di questi fori e c'era scritto Selcal o Selective Cal, che poi io non ho mai capito in cosa consistesse. Comunque in Italia era vietatissimo, comunque, quindi manco, era roba che andava in Francia quella lì, questa chiamata selettiva, ma sarà stato un segnale tipo subtoni, che ne so io, subtoni, mi le solite menate. Comunque velocemente quell'apparecchio non era, perché c'era qua a casa quell'apparecchio, me l'ha portato un cibo, me l'ha portato un po' fracassato dentro, ma bisogna cercare di sistemarlo piano piano con lo schema, mi devo attentare a cercare dove ho messo i fili, perché ne hanno staccato 4-5 e non si capisce un cazzo, però in trasmissione visto già esce e ricezione in pratica c'è un canale, non so dove sia, mi sembra che 26 o 800 qualcosa. Ok, anda bene, questo microfono sta uscendo bene, questo è di Antonio, Delta 1, questo microfono da tavola. Da tavola? Che microfono è? È precisamente col tanno più 3, solo che non c'è scritto tanno più 3, è uguale, preciso. 25 euro ha pagato, più le spese di spedizione quando tagli in tutto. Ho capito, sì, di quelli generici. Addirittura ho visto il tuo, come si chiama quello bello, l'Ecomaster, Sadelta Ecomaster, l'ho visto rimarcato con un'altra marca, nuovo e non, però un capitale, 200 o 250 euro, vabbè, c'è un limite a tutto, poi vabbè, se uno è molto benestante, si vuole levare lo sfizio, te li caccia, se lo compra, però l'anima. Ok, non so, costa un sacco, microfoni, apparecchi, eccetera, adesso. Deve avere proprio culo, deve avere il sito giusto per poter comprare bene, capito? Parecchi rigenerati, funzionanti, modello vecchio ma funzionante. Questo è un microfono modello vecchio, però funziona benissimo. Gli hanno messo il LED, gli hanno messo, perché il LED questo non esiste in pratica. Poi hanno messo un LED piccolino e così sai quando schiacci il pulsante che sta andando in trasmissione. Tappa. Ascolta, io rilancio Antonio adesso perché queste poverette di gatte stavano aspettando ancora da mangiare, perché io ho pranzato, mi sono attaccato al baracchino. Pensa Antonio, quando ho sentito fischiare, io stavo facendo i piatti ancora, ho risposto alla chiamata, poi mi sono distratto, queste povere creature hanno una fame che gli sta scendendo la barbara, poi devo cercare il cellulare perché l'ho buttato da qualche parte, non so se l'ho lasciato in macchina, in moto, in camera. E poi c'ho anche 7, quindi vado a bere. E quindi vi lascio. Riprendi Antonio, ricordate, c'è Nicola, Antonello, Luca in pausa. Non in menopausa, in pausa. Sta facendo roba di computer. Vai Antonio. E K, al lupo grigio non è che io lo senta. Non lo sento bene, ce lo sento ma lo sento poco. Mi dispiace, se non si attrezza con l'antenna non ci posso fare niente. Quando ero in un'altra casa lo sentivo molto molto meglio. Cappa. Avanti Antone. Scusate, se il lupo grigio fosse basso di radio in particolare, provate in FM, vedrai che migliorerà molto. A dopo, ciao. Dopo vi giochici, gnogno. E qua ehi Antonio, sto cercando anch'io un microfono senza spendere molto per questa radio. Guardi un attimo come ha fatto Antonio, 25 euro l'ha pagato Antonio, più 20 di per ballata a casa, sono 40 euro in tutto, già l'hai visto, c'è bene, è un microfono nero. Assomiglia un po' al tanto più 3, anche se non lo è, però va bene, sembra che vedi già vari bene. Adesso sto usando il coso, il DM1000 io. Solo che come l'ho chiuso deve essere che si è staccato, cioè sta toccando il potenziometro dell'eco, perché mi dà il reverbero, ma lo vedrà l'eco lento. solo la amplificazione palmare. Ce l'avevo anche io col microfono. L'avevo anche io. Lo deve essere a posto, l'altro giorno ho messo la batteria nuova, poi ho agganciato la capsula nuova, mi sono già esce bene. Io ne quella purtroppo non l'ascolto. Se non si mette qualche antenna come si deve, è fottito. Appunto. Lo sentivo bene, lo sentivo qua, ho sentito sì, ma non vorrei, magari non mi sento forte, mi sento bene, non riesco proprio a sentirlo. E vabbè, Antone, dai, sai che faccio, sono una bella drumita, sono in giro stamattina. Ieri mi sembra che di servizio no, ho visto, mi sembra il video in diretta, io devo partire, non mi ricordo bene. È una bomba. Ah, ho capito, gabba, meglio così, finché ce n'è. Però cazzo che con questa storia da vedere come si chiama dei concerti, si sta allargando il culo, Cagliari 140 persone ho visto ricoverati in ospedale, cazzo, mi sa che se continuiamo con questi concetti qui in autunno ci siamo nuovo a capo. Siamo al coso, mamma mia, alla figlia dei candelieri, non c'era, ho visto il video delle, come si chiama, in televisione, il video lì, non c'era posto di passare in coso per te Emanuele. Cazzo, con tutti quelli fuori fuori che c'erano, magari positivi, crocro. Ma la gente esagera pure. Anch'io ce l'ho avuta la febbre a 40, mi sono preso delle medicine a casa, mi è passato, punto. Non è niente di che, tutte stronzate. Lo so, già. Solo che la natura di balle, hai capito? Quando ti prendi la febbre, cosa del genere, devi stare a casa, non puoi uscire, non puoi andare a... Se ti sentono tossine al supermercato, immediatamente mi vengono le crisi epilettiche, hai capito? E quindi... è tutto togliaio. Un giorno mi era successo a me di avevo avuto la birra fredda, mi sono messo a tossire e mi ha detto tu ne vattene a casa, c'è il Covid e cose del genere eccetera eccetera. Poi mi è uscita quell'altra a casa, hai capito, dove andate a casa, non ti do niente, non ti do neanche una bottiglia di birra. Ascolta, adesso mi ha dato le balle, adesso vado in farmacia, gli ho detto mi faccio il tampone, se non c'è niente, gli ho detto ti piglio tutta a calcio in culo, ti prendo, gli ho detto. Sono andato in farmacia, gli ho fatto vedere il tampone, leggetelo bene, adesso ho detto bene, la birra e la voce un po', gli ho detto, il giorno e l'ora che c'è la tosse, tu ti faccio buttare fuori dal barino, a vestiti biazzi, gli ho detto. È stata zitta, non ha più parlato, anzi mi ha detto anche scusa, sono volato. Appassa, pure io ce l'ho avuto sicuramente, questo presunto Covid che dicono loro. Ho preso la tachipirina, mi sono curato e sto bene, vaffanculo. Gente, un poco di cazzate. Dici che mi addormento, Antone, dai, ci sentiamo che c'ho un bel di sonno, c'ho. Ero in giro poco fa col bambino, facendo commissione. Ah va, ti dormimmo. E io vabbè, Antone, ci sentiamo, allora fammi bene e... buona dormita, ci sentiamo. Ah, ciao Antone, ci risentiamo. Tutte stronzate sono. Io lo so, niente manca, la salsa di specialmente, capito? Quindi è per non fare a bisecchiarmi. Ho speso un ventino per farmi come si chiama, gli ho sbattuto in faccia, è stata zitta, non ho più non si coglioni. Solo per quello. E quella persona volta gli ho detto, te ne vai tu a casa, io sto qui, alla prima cosa che ti sento, gli ho detto, ti faccio spedire immediatamente a casa. Se no ti chiamo i carabinieri, ho detto, ti siete biazzi. Non so niente, macca e boh. Beh, buonanotte, ci sentiamo dopo. Ciao, buonanotte, a dopo. Chi ci è rimasto? Ah, avete lasciato Bianchi, non stavate modulando, Nicola ci sei ancora, cambio. Oh, ma aveva salutato, avevate chiuso, ho sentito dall'altra stanza, ci sentiamo, qualcuno ha chiuso. E Antonio è andato a fare la nanna. Che ore sono? Mio, ho trovato il telefono, aspetta, guarda che ore. Io non ho più orologio, li ho tutti rotti. Vi volevo prendere quello da... è praticamente che ti dà tutte le informazioni dello smartwatch, solo che poi mi giro nel letto, do certe botte col polso al muro e se me ne metto di quelli là elettronici lo spacco al primo colpo. Ecco perché mettevo sempre orologi economici. Mi piacerebbe però, perché almeno ti arrivano le notifiche e le leggi sull'orologio. Se arriva una chiamata vedi il numero sull'orologio, decidi poi se rispondere o no, capito? Così puoi tenere quando stai guidando, tieni lo smartphone nel cassettino lì dove lo tieni, nel borsello se stai camminando, andando in moto, in tasca, e sull'orologio ti arrivano tutte le notifiche. Vabbè, si vedrà, tanto è economico, come quello costa 35-36 euro, quello della Xiaomi, o deciderò se prenderlo, tanto è roba che al primo colpo si rompe, me lo so già. Gappa. Io si rompe, si perde, il discorso è questo. È questo. Io ce l'ho il coso. Io do l'ex originale, quello placato in oro. Ce l'ho buttato qua a casa, ma non lo porto a passeggio, quello rimane qui. Sì, insomma qua abbiamo chiuso quasi tutti, dai. Sto guardando così qualche notizia. Libero Tecnologia, come fanno le autorità a scoprire chi guarda il pezzotto? Sai, quello per le partite, no? Quelle per piratare. Piratare le partite. Dall'IP, grazie. Vabbè, lì lo spiegano perché è terra a terra. Va bene. Sempre dove girano i soldi, vedi il calcio, molti soldi, sono sempre lì pronti a... Non bastano i soldi che hanno, a volerne ancora di più. Tutto per degli uomini in mutande che tirano a calcio una palla, come la vedo io. Comunque, vabbè, sempre forza Juve, è ovvio, non ci può essere altrimenti. Ah, tu sei juventino, sì. No, io per lo sport. No, vabbè, sai cos'è, più che altro nonno era juventino, allora si simpatizzava più per la Juve, capito? Certo non interista, passa via, va bene, però no, anche a me non è che me ne freghi più di tanto, è buono solo quando scommetti qualcosa magari su una partita, su chi vince, e se ti va bene ti entra qualche soldino in nero. Sempre questo, anche se giochi all'otto, se azzecchi un terno secco, a voglia che te ne danno soldi. Quindi figurati, aspetta, il telefono, due minuti. Sì, però sull'otto ci paghi le tasse, capite? Vabbè, prova, 1, 2, 3, prova. Mamma mia, non vedo niente. Attenzione Nicola, lupo grigio, se sei ancora all'ascolto cambio. Sono rientrato al telefono. Chi era? La tua amante? No, Giuseppe non ci aveva chiamato. Sì, Giuseppe Loncino. Eia, e come sta? Lui non entra più, no? Io ho sistemato la sella quella della macchina, se l'ha piazzata nel palo. Nel palo. Già esce quella antenna, c'ha anche il Zodiac, quello che vendeva una volta minchione elettronica. L'ho sistemato, è uno che mancava le finali, io l'ho piazzato, poi gli ho piazzato l'integrato audio e al primo colpo ha funzionato. E gli ho regalato. La stessa baracchino, fa MFM, c'ha un audio in FM con l'apparecchio che è allucinante. Zodiac, ma di produzione un po' più recente o roba dell'anno dell'attacco? E da lui quando c'era Melchiori, ti ricordi c'era il 5034, il 5036, e poi c'era un Zodiac, dove c'è stato un canale, che quello no. E voleva un sacco di via, io ho detto te lo conto. E poi, se non mi ricordo male, c'aveva anche quello che c'hai tu. Quel baracchino vendeva lui, quello per emergenza. Ah, il Maxcom 7. A proposito, quell'apparecchio è fermo da tanto. C'era uno stanzino qua a fianco, sempre nella valigetta, però la modulazione stava andando non bene, la modulazione. Purtroppo, essendo un apparecchio della prima metà anni 80, dubito che si possa sistemare, a meno che non sia proprio regolazione a livello di trimmer. Ma se ci serve un componente, la vedo male. No, il film è regolare, già lo sai, il film che c'è vicino a sul mattone. C'è il film lì, quello è l'LC, in aumenti e si è a posto. No, ma non che non sia la capsula, non ci vuole molto a cambiarla. Capito? Già c'è la capsula, se te lo servono. È la cazzata che tra la capsula, già lo sai. Perché la modulazione è diventata, come dire, di cattiva qualità. Tu conta una cosa, mio Antonè, lì tutti i condensatori ci sono dagli anni 80, è stato fermo anche 20 anni quel portatile, io non so cosa ne uscirà fuori, se vanno tutti cambiati, se si trovano, è una natura di balle, cioè... Peccato, nulla è eterno, però su tutto c'ho la valigetta. Il portatile e la sua custodia in finta pelle cartonata, però integra, che faceva anche da portabatterie. Infatti, se ti ricordi, ci stanno, mi pare, 12 batterie da 1,5 o da 1,2, ecco, se mettevi quelle da 1,5 mi pare dovessi mettere dei ponticelli, era consigliabile. Se no 1,2 per 10, che poi è 1,37 a pieno carico, no? Insomma, il cavo suo originale di alimentazione, con l'accendisigari, l'antenino suo originale, quello che abitavi o sopra l'apparato o sulla basetta sua magnetica, in più avevo un'altra basetta magnetica marcata Intec che è identica, però l'antenino è in gomma, corto, stile quanto può essere lungo, è presente, ti ricordi le macchine della polizia anni 80-90, quelle della Digos, quell'antenino lungo 25 cm in gomma, è tipo così, ecco. E funzionano tutte e due, sono abbastanza tarate, di manica larga, funzionavano finché l'ultima volta che le ho provate. Certo, la portata è molto ridotta. E per i 4 watt non tira fuori dall'apparecchio. Ne avevo fatto uno l'altra volta a Saverio, Salvezza. Gli avevo messo l'attacco per l'antenna esterna, per l'antennino, eccetera, eccetera. A Saverio gli avevo messo a posto. E avevo anche aumentato il coso. L'audio dalla LC, però più di 4 watt non ti dà. Capito? Sì, ma va bene, va benissimo, per tutto il resto già c'è il 747 come dico io, o il 203.